Per noi questo processo è stato un percorso di autoeducazione, nel senso che di abilismo non se ne parla, non si conosce nemmeno la parola abilismo. Si è cominciato a utilizzare nel nostro paese più o meno da quando è venuto fuori tutto il casino del DDL Zan, che doveva parlare, cioè doveva occuparsi anche della discriminazione nei confronti delle persone disabili, ma neanche nel testo del decreto legge è mai utilizzata la parola abilismo. L'ha usata tipo una ventina di volte, i tre quotidiani principali italiani l'hanno utilizzata negli ultimi anni. Finire, non puoi descrivere, è un problema che non puoi analizzare e quindi non puoi risolvere fondamentalmente. Noi siamo insomma mai abbastanza grandicelle quando siamo cresciute. Noi a scuola, figuriamoci, non si parlava di disabilità. Quando eravamo ragazzine, noi non si parlava tanto di disabilità. E quindi il nostro percorso è stato un percorso di autoeducazione, nel senso che da quando ci siamo conosciute abbiamo iniziato a frequentare altre persone disabili, abbiamo cominciato a riflettere sulla disabilità in generale e sulla nostra disabilità. Abbiamo cominciato a capire che cosa vuol dire, per esempio, abilismo. Abbiamo cominciato a renderci conto che molte delle cose che vivevamo erano in realtà delle discriminazioni, ma non avevamo gli strumenti neanche per riconoscerli. Per riconoscerle, figuriamoci per riuscire a smontarle. Mai arrivate a capire queste cose, a provare a spiegarle. Vuoi aggiungere qualcosa? Una delle primissime cose che abbiamo cercato di spiegare nel libro è la questione del linguaggio da utilizzare quando si parla di disabilità. Perché se partiamo dall'idea che le parole non servono esclusivamente a descrivere il mondo che ci circonda, no? Ma servono a costruirlo, quel mondo, perché attraverso le parole che usiamo diamo un valore alle cose, alle persone. Allora pensiamo che utilizzare un linguaggio corretto sia fondamentale per cominciare a parlare bene di disabilità. Quindi, per esempio, abbiamo scelto di usare il termine disabile solo come aggettivo e quindi di utilizzare l'espressione persona con disabilità o persona disabile, che dir si voglia. Abbiamo deciso di rinunciare all'idea che esista una norma diciamo di corpo standard a cui bisogna tendere, bisogna avvicinarsi, quindi non utilizziamo il termine normabile o normodotato, lo disconosciamo perché se ci sono persone normodotate, chi non si avvicina a quella norma vuol dire che è un subdotato, è un subumano, vale meno degli altri, non ci sembra, diciamo, il modo migliore per approcciarci all'argomento. Quindi abbiamo deciso di utilizzare l'espressione non disabile. Abbiamo ribadito che, per esempio, per alcune disabilità si dice cieco e non si dice ipovedente per dire cieco, ipovedente si dice per dire ipovedente, per esempio. Abbiamo detto che si dice persona sorda, persona cieca e tutte queste varie cose, perché comunque abbiamo un po' quel linguaggio politically correct che poi in realtà serve un po' a nascondere la disabilità come se fosse qualcosa di brutto che va messo da parte. Il fatto è che negli ultimi anni, anche in Italia, si sta in qualche modo riscoprendo, quello che fuori viene denominato disability pride, no? Cioè l'orgoglio di essere disabili. Molta gente chiede di cosa dovresti essere orgoglioso, cioè del fatto di avere una patologia o di aver avuto un trauma che ti rende disabile. No, non è quello il punto. L'orgoglio di essere disabili, disability pride, sta nel fatto che vogliamo rivendicare la possibilità di esserci, di esistere al mondo, di stare al mondo con i nostri corpi mente che non corrispondono a quello standard lì e vogliamo poterlo fare senza doverci necessariamente adeguare a questa società. Vorremmo che fosse il contrario, vorremmo che fosse la società, il mondo, le strutture che cominciassero ad adeguarsi, tutto il resto cominciasse ad adeguarsi a quello che siamo noi. E quindi vorremmo cominciarci proprio dalle parole da utilizzare. E vorremmo che disabilità non fosse più una parola tabù, una parola brutta da tenere da parte, ecco, una parola che si può usare, un argomento di cui si può e si deve parlare. Ma spiega anche, se voglia, il termine, quello inspiration porn, che usate nel libro ed è, secondo me, è uno spunto interessante. Sì, continuo. Vuoi dire qualcosa tu? Perché mi sembra che ogni volta monopolizzare. È che io sono un voyeur di solito e l'inspiration porn è quando usano è scontato che sappiamo fare tipo la UIACI. Quando un disabile si laurea è una... come si dice? È un'eccezione e tutti ti dicono che bravo sei, che bravo che ti sei laureato, e lo fanno passare come una cosa subumana. Mentre quando tutti si laureano, ok, bravo, ma non hai fatto niente di che, ecco. E l'abilismo è anche questo. E penso io, come anche Claudia, durante la nostra infanzia ne abbiamo sentite... Anche adesso. E che adesso ti sai difendere. E siamo cresciute, io parlo per la mia esperienza, sono cresciuta sentendomi dire che brava, che brava che ti sei, che ti sei, che brava che hai finito le scuole, che brava che hai la patente, che brava che sei andata all'università. Mentre sì, sono delle cose che il disabile come il non disabile lo fanno, non dico, fanno non allo stesso modo, però lo fanno. Sì, questa cosa che diceva Greta, insomma, fa parte un po' della narrazione che noi facciamo della disabilità, che è una narrazione, da un lato è quello che racconta Greta, no? Spettacolarizzare un po' i nostri successi in modo che servano anche da, come dire, da spunto, da ispirazione appunto per gli altri, cioè perché un po' è come dire, se c'è riuscito lui, se c'è riuscita lei a laurearsi, no? Tu che sei meglio perché non sei disabile, che scuse c'hai? Quindi utilizzare le nostre storie, le nostre esperienze per fare ispirazione nei confronti delle persone non disabili, ed è quello che appunto questa attivista Stella Young chiamava inspiration porn. E poi dall'altro lato c'è la narrazione pietistica, quella triste delle pubblicità con la musichina triste, le mamme che piangono, i bambini che non sono mai censurati quando sono disabili o razzializzati, non sono mai censurati, quando sono bianchi e stanno bene, sì. Non si capisce questa cosa. Quel tipo di messaggio lì dove la disabilità viene raccontata da qualcun altro che te la presenta come una tragedia insormontabile che rovina la vita di intere famiglie, e quindi tu che sei un bravo e caritatevole cristiano puoi donare i tuoi soldi fondamentalmente per aiutare la ricerca, magari, perché passa sempre questo messaggio, no? Che le cure per questo tipo di problematiche sono cose che vanno sovvenzionate attraverso la carità. Non è una roba di diritti, cioè siamo cittadini, quindi abbiamo il diritto di essere curati come tutti quanti gli altri. Questo è un messaggio che non riesce ancora a essere cambiato. Quindi c'è questa narrazione bipolare che secondo me, insomma, penso di poterlo dire tranquillamente qua, dipende molto dal fatto che siamo un paese tremendamente cattolico, ancorato a quella visione pietistica, caritatevole nei confronti di chi è svantaggiato. In realtà appunto non dovrebbe funzionare così, dovremmo renderci conto che... quindi sì, è un po' a spizzichi e bocconi ovviamente per questioni editoriali, perché doveva essere piccolino, infatti ci hanno fatto tagliare, taglia, tantissimo, e poi perché comunque volevamo provare a toccare un po' tanti argomenti diversi, perché ovviamente nel corso degli anni abbiamo vissuto tante esperienze diverse. Ti rispondo prima all'ultima domanda che mi hai fatto. Noi crediamo che in questo momento, almeno in Italia, non esista una vera e propria comunità disabile. Nel senso, non esiste una comunità disabile come per esempio potrebbe essere la comunità LGBTQIA+. Non c'è quella omogeneità, quella coerenza, quella forza, non c'è quella volontà di creare un gruppo che, diciamo, è diretto verso l'idea di raggiungere degli obiettivi, di ottenere dei diritti. Non c'è per svariati motivi, perché la storia delle persone disabili è una storia lunghissima e complicatissima, che comunque siamo sempre stati in qualche modo marginalizzati e tenuti fuori dalla società, quindi tenuti fuori anche dai contesti di lotta per i diritti. Non c'è, perché noi utilizziamo la parola, la, diciamo di solito la disabilità, no? Come se fosse un concetto chiaro e facilmente definibile. In realtà, quando parliamo di disabilità, noi, cioè, usiamo questa parola che è un po' una parola contenitore. All'interno di questa ci sono tantissime esperienze differenti. Ci sono disabilità fisiche, disabilità sensoriali, ci sono disabilità invisibili, ci sono neurodivergenze, eccetera, eccetera. Quindi le persone disabili vivono esperienze molto differenti una dall'altra, in contesti molto differenti uno dall'altro, e tutte le esperienze che riguardano strettamente la nostra disabilità si intrecciano in qualche modo con tutte le altre categorie di cui possiamo far parte. Esempio banale: se io sono una donna disabile avrò dei problemi differenti rispetto a quelli di un uomo disabile. Se io sono donna nera e disabile avrò dei problemi differenti rispetto a quelli di una donna bianca disabile, eccetera eccetera. Quindi noi diciamo che l'intersezionalità delle lotte dovrebbe essere fondamentale, proprio per il fatto che le persone disabili fanno parte, in realtà, cioè non siamo un insieme a parte. Non so se vi ricordate gli insiemini che si facevano, tipo alle elementari, che c'erano i cerchietti colorati. Ecco, quel cerchietto colorato lì in realtà ne interseca un sacco di altri, praticamente tutti gli altri, perché la disabilità in teoria può interessare personale di qualsiasi etnia, eccetera eccetera. Quindi è un problema che riguarda tutti, e necessariamente bisognerebbe intrecciare questi contesti di lotta. Poi mi avevi chiesto un'altra cosa. Mi hai chiesto del corteo. Il corteo, questa storia qua l'ha vissuta in realtà Gresa, quindi adesso io le passo il microfono, lo spiega lei. I cortei di solito non sono accessibili. Non sono accessibili da un punto di vista fisico, possiamo dire, nel senso che chi li organizza non mette in conto dei gradini, dei zampiettini, banalmente, che non tutte le carrozzine ci possono passare, dei marciapiedi, eccetera. O anche banalmente della lunghezza. La lunghezza per una persona disabile con disabilità motoria è difficile da finire. Per questa ragione, ma neanche per una persona con la carrozzina elettrica è possibile da finire tutto. Chi organizza i pari da queste cose non si pensa, perché ci vuole lavoro, ci vuole tanto tempo, ci vogliono tanti permessi, che chi li organizza dice che in queste dinamiche e anche per questo fatto che nel libro parliamo di poca inclusività da parte dei gruppi più di quei gruppi più amalgamati, diciamo, come può essere la comunità LGBTQ, ma molte altre. Sì, che poi aggiungo soltanto una cosa: in realtà l'accessibilità degli spazi, dei cortei, per esempio, sì, è vero, come dici tu, che servono dei permessi, eccetera, serve anche accordarsi con i comuni, a volte dipende dove fai i cortei, però comunque ci sono delle cose che si possono risolvere in maniera proprio spiccia pratica. Solitamente basterebbe, diciamo, che all'interno dei comitati organizzativi ci fossero delle persone disabili che ti danno dei consigli pratici. quindi magari puoi cambiare leggermente il percorso evitando degli scalini, le scale, evitando i tratti con i sanpietrini, come dici tu. Puoi fornire i tappini antirumore per le persone neurodivergenti invece di rinunciare alla musica, ad esempio. Puoi organizzare un tratto un po' più libero, meno accalcato di gente, per permettere alle persone che hanno difficoltà motorie di spostarsi più tranquillamente. Puoi affittare un autobus banalmente, farci sedere la gente che non ce la fa camminare tanto. Quindi in realtà le soluzioni ci sono, nella pratica non sono nemmeno troppo complesse, se non appunto quello di cambiare i percorsi che ti devi per forza accordare col comune. Però, come dice Gresa, manca la volontà di stare a faticare quel tot per includere persone che poi molto spesso si sentono dire: vabbè, invece di venire al corteo, sciopera da casa, fai un bel post su Instagram o su Facebook, che tanto vale il pensiero. Quello succede a Natale, ecco. Quando si tratta di... quando stiamo parlando di contesti di lotta, stiamo parlando di cortei, manifestazioni di manifestazioni di piazza, e la gente dice: ma io voglio esserci lo stesso, cioè non è che siccome sono disabile devo stare chiusa a casa e guardarmi le cose in diretta streaming per forza o guardare le foto dopo, voglio esserci anch'io. Allora serve che ci sia la possibilità per quelle persone di esserci. Volevi aggiungere qualcosa? L'accessibilità e l'inclusività secondo me sta anche nella parola. E mi trovavo, l'esempio in cui faccio nel libro è un paio di nome, che nel nominare tutte le categorie, tutte, e ti hanno messo tipo mezz'ora a dirle tutte, l'unica che non hanno nominato è le persone con disabilità. Ora dico, voi prendete mezz'ora per elencare tutto quello che c'è nel mondo. Una in più non faceva differenza, però continuano a nominarla soltanto quando devono fare buon viso a cattivo gioco. Prima avete parlato del sto a casa su Instagram, no? Cioè, quindi nel libro parlate anche del ruolo che i social possono avere, e prima parlandone assieme appunto era uscito anche diciamo i limiti che lo strumento social può avere, e quindi se volete parlare di questa roba qua, che era a me prima aveva interessato quello che ci eravamo detti. Sì, allora, siccome no, riprendo un attimino il filo del discorso, noi eravamo partiti dall'idea che non esiste questa comunità disabile. Non esiste per le ragioni che dicevamo, ma non esiste anche perché non è facile che in un territorio non è facile incontrare altre persone disabili, non è facile per esempio incontrare persone che hanno la tua stessa disabilità. Esempio banale, io per esempio ho una malattia rara, nel corso della mia vita, in 37 anni, ho incontrato 3 persone con la mia stessa patologia, per esempio. E le ho incontrate tutte in città diverse, in momenti impensabili, cioè non è che uscendo fuori da casa incontro gente che vive come me. Quindi è difficile fare comunità nel mondo fisico, perché è difficile incontrarsi per mille motivi, perché non incontri gente come te, perché la gente fa difficoltà a uscire da casa, perché manca l'assistenza, perché ci sono le barriere architettoniche, per tutta una serie di motivi. I social network appiattiscono le distanze ed eliminano le barriere fisiche, perché ovviamente io posso stare a casa mia e parlare potenzialmente con chiunque, posso parlare con gente che sta dall'altra parte del mondo e confrontarmi con quelle persone lì. D'altro canto ci sono dei rischi. Il rischio principale è che i social diventino una sorta di ghetto per le persone disabili, cioè che ci venga detto: accontentatevi degli spazi virtuali che sono comodi per voi, perché aggirano le barriere fisiche, aggirano anche tutti quei problemi di accessibilità, come dire, sensoriale ormai, perché ci sono app, per esempio, che ti leggono i testi scritti o che ti mettono i sottotitoli nei video, quindi anche chi ha disabilità sensoriali, le persone cieche, le persone sorde, riescono facilmente a utilizzare i social ormai. Ovviamente, come dicevo prima, non si possono trasformare gli spazi virtuali in dei ghetti, cioè non si può dire alle persone disabili: rimani là, così è tutto più comodo, io non devo sistemare il marciapiede, comunica con il resto del mondo attraverso il tuo computer. È una cosa assolutamente infattibile. E poi c'è un grosso limite che è proprio dovuto allo strumento social, per come i social funzionano. Perché secondo me, ma questa insomma è un'idea mia, quindi pigliatela per quello che è, quelle cose che sui social la gente chiama comunità, secondo me molto spesso sono più delle community, più forte, diciamo, quella più in vista, quella con più follower, eccetera, eccetera, che interagiscono attraverso questa persona qui, questo attivista influencer di riferimento. Così però effettivamente non si costruisce una comunità, perché non c'è uno scambio collettivo, c'è uno scambio uno a uno tra la figura di riferimento e i suoi follower. Quello che i social secondo me possono dare di positivo è la possibilità di incontrare virtualmente altre persone e poi magari far diventare questi incontri degli incontri reali. Cioè, per esempio, io e Gresa ci siamo conosciute così, ci siamo conosciute all'interno di uno spazio virtuale, di un collettivo che era nato all'inizio soltanto virtualmente, un collettivo di studentesse e studenti disabili di Bologna. Io vengo dalla Sicilia, lei viene dal Trentino, in teoria non avevamo praticamente nessuna possibilità di conoscerci. Ci siamo conosciute sui social, abbiamo iniziato a parlare, a confrontarci, e poi però insomma da lì è venuto fuori altro. Quindi io penso che i social siano l'inizio di qualcosa, possono gettare le basi per cominciare a creare delle reti di confronto e di come dire, di amicizia, anche di supporto, di mutuo aiuto tra le persone disabili. Però bisogna uscire dalla dinamica social e creare altro fuori, perché altrimenti al concetto di comunità non ci arriveremo mai. Non hai niente da dire, ok. Scusami che dico tutto io. Ah, visto che abbiamo parlato degli strumenti informatici, nel libro parlate anche della DAD. Raccontaci. Continuo io? È il mio campo questo. La DAD è stata, vabbè, lo sappiamo, non è stato uno strumento fondamentale. A me una delle cose che mi ha fatto un po' incazzare è che fondamentalmente ci sono tantissime persone che per anni non sono riuscite a uscire da casa perché avevano una disabilità tale che non riuscivano a farlo, perché non avevano l'assistenza tutti i giorni, perché stavano troppo lontane dall'università. Queste persone non potevano andare a studiare. Per queste persone qui non è stato mai fatto nulla. Ma quando tutti quanti eravamo tutti bloccati dentro casa, nel giro di pochissimo in questo paese tutte le scuole e le università avevano un sistema per farti studiare e dare gli esami a distanza, che è un po' quello che succede quando tu fai la richiesta al comune per avere una rampa sul marciapiede perché c'hai la sedia a rotelle e non te la fanno, però se la fa la mamma col passeggino perché gli viene male quando va a fare la spesa a portarsi il figlio dietro, la fanno immediatamente. Quindi c'è questo doppio standard di come le cose funzionano quando servono alle persone, anche alle persone non disabili, e quando invece servono soltanto le persone disabili. Anche la DAD è stata una grande cosa, perdonami, finisco così poi ti faccio. E anche quello, non si può rischiare che la DAD diventi un ghetto, perché sarebbe bellissimo che continuasse a esserci, perché comunque le persone disabili continuano a fare difficoltà a seguire le lezioni, soprattutto all'università. Magari i ragazzini delle scuole hanno più bisogno di socializzazione in presenza, ma l'università te ne freghi, a un certo punto dici insomma fatemi laureare, datemi mezzi per studiare e dare gli esami. Però bisogna contestualmente rendere accessibile tutto il resto. Dimmi. Sì, il problema, allora guarda, io la questione DAD l'ho indagata abbastanza bene con le persone disabili perché ci ho fatto metà della mia ricerca di tesi, e un sacco di gente mi ha raccontato esperienze allucinanti con l'università, prima e dopo, il Covid, durante, eccetera. Cioè, per esempio, c'era un ragazzo che aveva difficoltà a scrivere, quindi chiedeva, per esempio, quando faceva gli esami, di fare gli esami orali, e il professore non gli concedeva di fare l'esame orale perché no, l'esame è scritto. Ma io non posso scrivere, mi date un computer, un tablet, qualcosa? No, devi scrivere con la penna. Quindi pur di non fargli fare un esame con una modalità diversa, lo mettevano in una classe da solo con un tutor a cui lui doveva dettare le risposte. Il tutor ovviamente non studiava quella roba lì, quindi magari tipo gli chiedeva di fare lo spelling delle parole che doveva usare, eccetera, eccetera. Quindi si perdeva tantissimo tempo per fare una cosa che si poteva risolvere in modo semplicissimo. Tutto questo perché? Perché le università, le scuole non so tantissimo, ma le università di sicuro, quelle le ho indagate un po' meglio, non sono strutturate in modo da permettere alle persone che hanno necessità differenti, perché hanno corpi differenti, di poter arrivare agli stessi obiettivi degli altri. Cioè nessuno chiede un percorso più facile, nessuno chiede di arrivare alla laurea con meno sforzi, per carità. Chiediamo soltanto dei percorsi alternativi che possono adeguarsi appunto al tipo di corpo che abbiamo. E questa cosa pare che non sia recepita molto bene. Dare la possibilità della DAD su richiesta agli studenti e le studentesse disabili che ne hanno bisogno potrebbe aiutare a tantissime persone a non abbandonare il percorso di studi, perché molti a un certo punto mollano perché non gliela fanno a starci dietro. Questo potrebbe essere una soluzione che il Ministero ha preso e accantonato, perché una volta finita l'emergenza Covid il concetto è stato sti cazzi, le persone disabili, noi non ce ne frega più niente, gli altri possono andare a lezione, chi non ci può andare sta a casa. Tu volevi aggiungere qualcosa? Sì. Io in merito alla DAD, il problema è che gli ausili che danno alle persone di disabilità devono passare attraverso un ufficio che si chiama ufficio disabilità, quando rispondono. Perché io ad esempio per gli esami ho bisogno del computer, torna al prossimo appello. E anche questa è una forma di esclusione, perché tu devi comunque ricordarti di ti escludono dall'esame per una cosa che non ha bisogno di 15 giorni di tempo, quindi te la complicano in tutti i modi che è possibile, anche se mettono la data. Ho lavorato per vedete dal punto di vista degli studenti, c'è anche dal punto di vista degli stessi docenti. Io ho visto in questi 12 anni delle cose allucinanti da parte dei loro colleghi, che fondamentalmente hanno trattato questa persona in una maniera, appunto, mancava tutto il contesto della comprensione del fatto che appunto questa persona aveva determinate esigenze, quindi succedeva che non poteva mai partecipare ai consigli di dipartimento perché venivano fatti in delle aule in cui lui non aveva la possibilità con la sedia a rotelle di andarci, quindi veniva escluso da un aspetto che poi è fondamentale, perché un consiglio di dipartimento permette di decidere una serie di cose. Spesso quando arrivavo in dipartimento andavo a trovarlo perché dovevo fare delle cose, magari d'inverno fa buio presto, entravo nel suo studio e lui era da solo al buio, completamente al buio, perché a nessuno passava per la testa di dire... Sì, no, è una cosa allucinante di accendere semplicemente la luce. Non parliamo dell'utilizzo degli ascensori che erano adibiti appunto all'uso della carrozzella, che venivano completamente sempre utilizzati dai colleghi che potevano tranquillamente utilizzare gli altri ascensori. E oppure capitava che quando si doveva spostare, dovevano fare delle cose insieme, lo ritrovavo nel corridoio del dipartimento, mi chiedevo: ma scusa, ma perché sei nel corridoio del dipartimento? E il collega mi ha lasciato il dubbio. Quindi questo più che altro per dire come quello che voi vedete dal punto di vista è anche all'interno di un mondo che è quello dei docenti universitari, che spesso fanno gruppo, diciamo che c'è una specie di corporativismo su cui si potrebbero dire tante cose, eccetera, però anche in quel caso lì questo aspetto viene a mancare completamente, quindi c'è una specie di corrispettivo di quello che vedete voi, addirittura anche nell'ottica dei tre colleghi presenti nell'ambito universitario. A me questa, appunto, questa cosa, che sono stato 10-12 anni appunto insieme a lui, mi ha veramente lasciato allibito, cioè non lo so, io non ho questa grande competenze nelle gestioni, però questa cosa io ammetto che me la sono portata avanti, ho visto delle cose che dice, ma come si può fare una cosa del genere? Come si... Quindi il conte mi sembra proprio che manchi anche proprio su dei piani poi che dovrebbero in qualche modo, poi quello dei docenti universitari, io faccio filosofia, quindi la filosofia, grandi concetti etici. Docenti, assolutamente no. Cioè, il concetto che dicevamo prima, cioè, la disabilità riguarda chiunque, a prescindere dal ruolo sociale che ha. Per questo è assolutamente intersezionale come concetto. Sia quello che diceva Gresa che quello che dicevi tu, cioè noi siamo alla fine schiavizzati da una burocrazia da un lato e dalle regole stupide come quello del fatto la riunione si fa in quella sala lì, ma ci sono le scale, però la riunione si è sempre fatta lì, cambia sala, cioè dico è una sala, cosa cavolo cambia? Siamo più aggrappati a questo che all'idea di plasmare un attimino il mondo a beneficio di certe necessità, cioè io non posso sapere 15 giorni prima, un mese prima se darò l'esame, cioè perché io lo devo sapere un mese prima, il mio collega lo deve decidere 3 giorni prima, dai anche a me la possibilità è decidere 3 giorni prima, quindi mi dici che entro 3 giorni ti devo chiedere il computer, ma no entro 15 giorni, c'è stata gente che mi ha chiesto che gli adattamenti glieli fornivano soltanto con 30-40 giorni di anticipo, tu magari non hai manco iniziato a studiartelo l'esame 30-40 giorni prima, quindi non lo sai se lo farai quell'esame. Quindi sì, è sempre quel concetto lì, cioè il mondo non si adegua, ci chiedono noi di adeguarci. C'è un aneddoto, se posso, che nel libro non c'è, però mi fa sempre strano quando ci penso. Dopo la prima guerra mondiale, no, che tornavano tutti questi soldati sfregiati, gli mancavano pezzi di faccia a molti, oltre che essere mutilati, eccetera, c'erano quelli che facevano più paura alle persone perché proprio gli mancavano parti del viso, della testa. E una tizia che faceva era un'infermiera, aveva fatto l'infermiera col marito medico nella Croce Rossa proprio per i soldati, però lei era una scultrice. Si inventò questa cosa, lei costruiva delle maschere che riadattavano praticamente i tratti somatici delle persone, gli ricostruiva le facce in modo che questi reduci riuscissero di nuovo a integrarsi nel tessuto sociale spaventando meno gli altri. Cioè, quindi questi poveracci dovevano andare in giro con dei cosi appiccicati alla faccia, cioè non soltanto gli sfregi, le ferite, eccetera, il dolore che dovevano avere, ma pure sta roba messa in faccia perché altrimenti gli altri si spaventavano e li tenevano fuori dalla società. Cioè, arriviamo a questo punto, al punto di modificare i nostri corpi così tanto semplicemente per evitare agli altri la fatica di adattarsi a qualcosa che è diverso. Quello è un esempio, insomma, abbastanza estremo, però comunque è quello che si chiede di fare, no? Cioè, lei deve fare per forza la richiesta 15 giorni prima, il tuo professore deve sperare che qualcuno passi ad accendergli la luce, quando basterebbe, insomma, cambiare un attimino il resto delle cose e farci vivere in modo più semplice, più tranquillo, ecco. E se vogliamo finire di parlare male della scuola, no? Che, cioè, nel libro c'è un episodio di una cosa che io non sapevo, che non so se è capitata a Creso, a te, della testimonianza. Ma anche se avevo 18 anni, hanno avuto la geniale idea di dirlo a mia mamma e non a me. E praticamente c'è una legge che dice che chi ha una disabilità psichica il liceo lo può frequentare, però alla fine del percorso non avrà il dimenticare la legge e lo deve avere il diploma, perché comunque anche se hai frequentato e ti meriti un diploma, però la bellissima legge italiana non la pensa in questo modo. Quindi se ti becchi il professore abilista e se non ti becchi dei genitori che, come lo sono stati miei, che lottano per farti avere i diplomati, per non usare parole per non usare sì, io all'inizio non avevo neanche in mente di andare all'università, perché ho avuto per tutta la vita un rapporto aiutissimo per questa cosa della disabilità con le scuole, che alla fine non un ragazzino che si sente sempre dire che è stupido non si ragiona neanche su andare all'università. Però poi appunto per di consapevolezza, e se poi vuoi andare non puoi andare perché non hai il diploma. Che poi l'università, cioè non è soltanto l'università per fare l'università. Se per esempio hai una disabilità fisica, magari hai difficoltà a fare determinati lavori, e quindi magari avere una laurea ti può agevolare un pochino. Non puoi accedere ai concorsi pubblici. Puoi accedere ai concorsi pubblici, non puoi farti una vita relazionale un po' più ricca e più piena, perché comunque non c'è, cioè, l'università è anche un posto dove conosci gente, dove ti fai gli amici, dove immagini in qualche modo il tuo futuro. Cioè non è soltanto faccio gli esami, prendo una laurea. È una cosa fondamentale, soprattutto quando, come dici tu, cioè già c'hai difficoltà a relazionarti con gli altri, se ti tolgono anche questa possibilità diventa ancora più... Viene dato arbitrariamente per colpa del professore stronzo che ci hai avuto tu, per esempio, a persone che in teoria non dovrebbero averlo, perché fanno la scuola come tutte le altre, fanno i compiti, le interrogazioni, studiano come tutte quante le altre, si applicano come tutte quante le altre, sostengono un esame di maturità come tutte quante le altre, quindi dovrebbero avere riconosciuto poi un titolo come tutte quante le altre. Questa cosa non funziona perché? Perché qualcuno decide che non gli va. Così, in questo paese funziona in questo modo. Abbiamo dimenticato qualcosa? Del libro, cosa... Cioè, a me mi sembra abbiamo ripercorso quasi a pizzichi e bocconi. C'è qualcosa che ho dimenticato? C'è che dovete dire? Se no, se qualcuno ha delle domande... Almeno abbiamo fatto intanto un'oretta. Se qualcuno ha delle domande, se no io avevo giusto una mezza cosa. Ma così. Prima vorrei le domande, in realtà. Domande, interventi, considerazioni, curiosità. Proviamo a usare il microfono così, visto che stiamo registrando, si sente. Allora, perché noi qui al Next Emerson e anche in altre situazioni di tipo politico, così, di comunità autogestite, come per esempio Hack Meeting, insomma, progetti politici autogestiti, ci siamo, devo dire, da poco, però ci siamo iniziati a porre un po' la questione del riuscire a includere maggiormente persone con disabilità e anche rendere i nostri momenti di incontro e i nostri luoghi più accessibili. E devo dire che questo per aggiungere un tassello a quello che dicevate, no? Nel senso che a volte c'è proprio una disattenzione totale, come avete detto, colpevole a 360 gradi. A volte, oltre a questo, c'è anche una difficoltà, cioè nel senso che a volte, tipo nel nostro caso, noi ci siamo confrontati spesso sul come fare a rendere accessibili i nostri spazi e ci sembrava una montagna insormontabile, cioè nel senso che ci sembrava, ci sentivamo e ci sentiamo totalmente inadeguate. Un po' perché c'è una società che appunto ti spinge a non occuparti di questa questione e di considerarlo un problema, non un problema, o comunque un qualcosa che non ti riguarda. E quindi devi disimparare tutta una serie di cose, di meccanismi, di automatismi. E un po' perché quando delle questioni non te le vivi in prima persona, chiaramente... A volte veramente anche le piccole cose non ti accorgi, proprio certe cose che noi diamo per scontato non riusciamo a renderci conto che invece sono un problema per altre persone, che altre persone hanno esigenze diverse dalle nostre. E quando abbiamo provato a affrontarlo, ci siamo, da una parte è stato appunto un po' frustrante all'inizio perché ci sembrava che sbagliavamo sempre, cioè che qualsiasi cosa facevi una cazzata, avevamo il terrore di sbagliare, di peggiorare, perché magari io ti voglio migliorare la vita e sto facendo una cazzata e quindi peggio. E dall'altro lato invece siamo rimaste colpitissime del fatto che le persone con disabilità che grazie a questa attenzione arrivavano, che prima non venivano e grazie a questo tipo di attenzione hanno iniziato a frequentarci, ci hanno molto rassicurato e messo molto a nostro agio perché ci hanno detto no, ma già solo il fatto di renderci conto che vi state ponendo il problema è chiaramente solo un inizio, non è la soluzione, però è un inizio. E ora è importante secondo me il lavoro che state facendo, nel senso che spesso quando abbiamo voluto informarci su queste cose l'abbiamo fatto con persone che non vivono in prima persona questo tipo di esigenze, ma che magari ci lavorano con persone con disabilità e quindi per carità, magari hanno un'esperienza, però non se la vivono in maniera diretta. E quindi secondo me è veramente importante il lavoro che state facendo perché è l'essenza dell'autogestione, cioè nel senso trovate voi delle soluzioni o perlomeno portate voi avanti esigenze perché sapete meglio di cosa state parlando. E dall'altro lato vi chiedo, non so se avete una risposta, come possiamo fare, nel senso, come possiamo fare anche a fare una rete? Se è difficile fare rete tra persone che hanno disabilità, ma è anche difficile fare rete con persone che vorrebbero affrontare il discorso e non sanno a volte da che parte iniziare. E sarebbe bellissimo riuscire ad avere degli strumenti anche per pratici proprio, tipo che ne so, guarda che questa cosa che stai facendo, tipo che ne so, il corteo, queste cose qui sono inaccessibili, mi stai dando fastidio, è un problema. Fare questo stesso tipo di ragionamenti, sollevare e nominare questo tipo di cose anche in altri contesti, negli nostri spazi, per cercare di affrontarli. Allora, a me, cioè, prima parlavamo anche di questa cosa e mi sembra che quasi faccia, cioè, lavoro come andrebbe fatto, nel senso, questo lavoro, cioè, adeguare gli spazi e renderli plurali significa semplicemente chiedere alle persone che sono direttamente interessate, ma proprio i suggerimenti nella pratica, no? Nelle cose pratiche, cioè, dici, guarda, sta porta secondo te è larga abbastanza. Su questo pavimento, se ci mettiamo i percorsi tattili per ipovedenti, per ciechi, secondo te migliora la situazione? Le luci disposte così possono dare fastidio a chi è neurodivergente, a chi è ipovedente, eccetera. Cioè, nella pratica queste cose te le può dire solo, come dici tu, chi le vive. Noi su questa cosa diciamo, della narrazione, l'abbiamo detta, no? Molto spesso, appunto, di disabilità ne parla chi? Ne parlano i parenti, ne parlano i medici, ne parlano gli operatori sanitari in generale, ne parlano persone che non si capisce perché ne parlano, perché magari sono sponsor, sono personaggi famosi che ne parlano, boh, così perché gli va. E quello che manca è la narrazione della disabilità da parte delle persone disabili. Io credo che un po', dimmi se secondo te questa cosa è una stronzata, però secondo me, visto che abbiamo passato praticamente decenni della nostra vita a essere marginalizzati, secondo me a un certo punto ci marginalizziamo un po' da soli. Partiamo prevenuti, diciamo no, vabbè, non ci vado perché tanto poi sicuramente non riuscirò a stare bene lì. Quindi, suggerimento numero uno, cioè dire che uno spazio è accessibile, che c'è il bagno accessibile, che l'ingresso è accessibile, gli spazi sono larghi, si può manovrare una carrozzina facilmente, eccetera, eccetera. È già un buon incentivo perché comunque se io sono informata non andare a casa. Confrontarsi assolutamente con le persone interessate, le persone disabili è il primo modo per risolvere i problemi, perché non ti puoi immedesimare, no? Se non la vivi una cosa, non la vivi, non la sai. E poi quando diciamo, cioè la disabilità è pensata come una cosa che riguarda solo alcune persone, che a noi non ci tocca, in realtà non funziona così, cioè non è così. Le persone che non sono disabili non sono disabili adesso. Ma le persone che non sono disabili, se gli dice culo, invecchieranno, e ve lo auguro, ma prima o poi ci andranno incontro a qualche problema, cioè i corpi sono fatti per decadere a un certo punto. Può essere questo, può essere un trauma, può essere una malattia, può essere semplicemente che conoscete una persona disabile che diventa vostro amico, vostro partner, eccetera, eccetera. E quindi poi ci avete a che fare quotidianamente con la disabilità. Quindi cominciate. appoggiare queste lotte anche se non si è disabili è comunque una cosa che ti ripaga personalmente, cioè proprio detto in modo molto egoistico, perché prima o poi potrebbe servire anche a te quella cosa più accessibile, quella cosa più facile, quella cosa meno complicata. Quindi cioè, una cosa che conviene, ecco, far parte di questo tipo di lotte. Tu vuoi aggiungere qualcosa? C'era però un'altra domanda. No, era molto simile a quello. L'altra domanda era più una considerazione che negli stessi percorsi citati prima, appunto, una delle conclusioni a cui siamo arrivati era ammettere quello che non eravamo in grado di fornire come informazione, ad esempio. Cioè, noi faremo questa cosa e non saremo in grado di, ad esempio, fornire certi servizi, ad esempio. Quindi cercare di, almeno dal punto di vista di chi organizza degli eventi o degli incontri o robe del genere, di mettere molto chiaro quello che uno è in grado o non è in grado anche di fornire. Sicuramente come informazione utile, ma anche come percorso proprio di, insomma, di un po' di autoanalisi, cioè cosa siamo in grado di fare collettivamente per certi contesti. E l'altra cosa, non sono domande, sono un po' di cose che mi sono venute in mente mentre parlavate, quella dei doppi standard, quella ad esempio, cioè, la narrazione che c'è a riguardo della comunità, cioè la capacità di fare gruppo, di farsi sentire, di farsi valere a livello di diritti della comunità LGBTQ+, rispetto magari a quella, insomma, vostra, e in un certo senso l'idea che un po' del doppio standard mi torna, perché magari loro vengono anche percepiti come più divisivi come narrazione, mentre voi più trasversali, e questo è in qualche modo forse legato alla iperretoricizzazione della vostra condizione. E quindi niente, intanto grazie ancora perché è stato super interessante e boh, niente, grazie. No, ma perché ogni volta c'è questa cosa della comunità LGBT, cioè secondo me ci sono delle comunità che è facile dire che si odia, cioè tu puoi dire tranquillamente, dici io odio i gay, cioè ok, lo dici, moltissime persone ti manderanno a fanculo, però qualcuno che ti dirà sì pure io lo trovi. Però raga, ma veramente, ma voi vi immaginate di andare per strada e dire io odio le persone disabili, io ammazzerei i bambini disabili? Cioè è una cosa che non puoi fare, capito? È come dire che anneghi i gattini, non lo puoi fare, perché va proprio contro quell'idea che già abbiamo un problema, figurati se è giusto che ci devi odiare, sempre per quella mentalità lì. Quindi c'è questa doppia morale più che doppio standard, no? Da un lato non posso dire che le odio quelle persone là, però dall'altro le odio e mi fanno anche un po' schifo, però non lo devo dire perché pare brutto, perché prima. E questo secondo me è un grossissimo problema, perché non viene fuori quell'odio lì, quindi è difficile contrastarlo in qualche modo. E poi c'è un'altra cosa, che storicamente le persone disabili sono sempre state infantilizzate, no? Cioè sono state tenute fuori dai contesti di lotta, perché comunque tu parti dall'idea, ma se quello lanza manca allacciarsi le scarpe da solo, vuoi che si metta per strada a declamare quali sono i diritti che gli spettano? Cioè non ce la può fare una persona che non può fare quello, non riesce a fare neanche quell'altro. Passiamo per eterni bambini, per persone che hanno bisogno di altre persone per essere, cioè, la gente pensa che non siamo autonomi perché magari c'è qualcuno che non riesce a prendere quel bicchiere e bere. Ok, l'autonomia non è prendere il bicchiere e portarselo alle labbra. L'autonomia è anche avere la possibilità di decidere chi deve aiutarmi a prendere quel bicchiere e portarmene alle labbra, di decidere che quella persona non lavora abbastanza bene quindi io non la voglio più, di scegliermi gli spazi che si mettono, che si aprono al confronto, no? Che dicono ok, noi abbiamo fatto queste cose, diteci se vanno bene, queste altre non sappiamo come farle, diteci come le possiamo risolvere. Perché comunque io credo che, non so se ti ricordi tutte quelle cose che ci eravamo scambiate in questo gruppo, i suggerimenti su come affrontare i piccoli problemi della vita, tipo se hai un problema con le mani come fai ad aprire le bottiglie, uso lo schiaccianoci per stringere il tappo. Cioè la disabilità ti porta a essere incredibilmente creativo, perché devi comunque affrontare tutta una serie di problemi pratici ogni giorno, no? Cioè la bottiglia dell'acqua prima o poi la dovrai aprire, se non ce la fai come fai? Trovi una soluzione. E quindi confrontiamoci con le persone diverse, fondamentalmente capiamo quali sono le loro difficoltà e quali sono gli strumenti che usano per superarle quelle difficoltà, perché magari basta poco poi a livello proprio pratico, a livello economico, per superare quelli che sembrano scogli incredibili. Magari io non ci arriverei mai a usare lo schiaccianoci per aprire una bottiglia perché non ho mai avuto il problema, però qualcun altro mi può far notare che mettere uno schiaccianoci vicino alle bottiglie potrebbe essere utile per chi non riesce ad aprire le bottiglie, e non mi costa assolutamente niente farlo. Io voglio aggiungere solo una cosa. La disabilità ti porta a essere creativo con tutto, ma più creatività ti devi mettere con le persone con cui interagisci, la devi essere proprio creativo. Grazie, grazie mille. Grazie mille.